Bene ragazzi, facciamo questa... Dunque, io sono grato al professor Mark Payanta ieri che mi ha sostituito, va bene? Io sono il formicone, sono adeguato. E ha cambiato il discorso al punto tale che ora sono costretto a continuare il suo metodo, va bene? Cercato di imparare alla svelta. Dianzi sto, ho lasciato lì il giornale, avevo preso, mentre prendevo il caffè c'è scritto studenti docent, c'è scritto sul quotidiano universitario, quello che avevo detto ieri. Allora, perché ce l'ho così tanto con la scolarizzazione? Perché la scuola è terribilmente indietro, ma la scuola tutta, questa che avete appena iniziato, quella che avete fatto, rispetto a dove siamo nel mondo, dov'è la conoscenza. Posso fare qualche esempietto veloce. Molti di voi per esempio avranno fatto il liceo scientifico, io lo so, l'ho fatto anch'io. Ho avuto figli che l'hanno fatto e conosco tanti, vabbè, studenti miei, conosco tanti figli di amici miei che lo fanno, conosco professori di liceo, tanti. Cioè, voi uscite dal liceo scientifico, vi hanno dato, ma vabbè, avete fatto questa cosa abbastanza ridicola che è la maturità, e non avete una cultura scientifica. Cioè, questo che sto dicendo per la scienza è la stessa. E vale per tutto, Cioè, quella che voi avete, avete fatto, è molto esercizio su alcuni aspetti specifici, ma non avete quella che gli anglosassoni chiamano la big picture, non avete la visione. Il metodo scientifico non lo conoscete, anche se avete fatto un liceo scientifico sperimentale, sono quasi peggio, perché sono fuorvianti. Perché sostituiscono la quantità alla qualità, alla profondità. Cioè oggi il pensiero scientifico è altrove e questo è completamente dimenticato. Praticamente i programmi di scuola sono ottocenteschi, a volte proprio di fatto, per le cose insegnate, vissute, diciamo così, vai. Ma sono ottocenteschi nel metodo, nel modo di affrontare le cose. Per esempio, pochissimi studenti escono dal liceo scientifico con l'idea di cosa sia veramente la fisica. Cioè la fisica che si fa al liceo, alla stragrande maggioranza di voi, irrimediabilmente appare come una cozzaglia di formule. Cioè uno di fronte al problema dice, dunque qual era la formula da usare? Ma qual è il significato? Perché per capire bene le materie scientifiche bisognerebbe impararle in modo umanistico e questo è assolutamente non c'è semplicemente. Bisognerebbe capire che cosa dicono, che sforzo riflettono del pensiero, che sforzo rappresenta, che cosa si sta cercando di capire, cosa si sta cercando di fare. E detto in modo un pochino più ampio, tutto quello che la caratteristica della scienza ottocentesca, poi il Novecento è stata una fase di transizione, per niente commentata a scuola, è una scienza dei cosiddetti sistemi chiusi. Faccio esempi banali perché devo essere sintetico, perché poi voglio arrivare al metrico, va bene? Sistema chiuso, si studia il pendolo, vi ricordate, no? Tutte le premesse, si assume che sia un mondo privo di attrito, si assume che non ci sia nessuna interazione con l'ambiente. Detto questo, si scrive l'equazioncina, poi si risolve il problemino, eccetera, eccetera. Questo è un sistema chiuso, perché io l'ho preso, l'ho tirato fuori dal contesto naturale, va bene, e lo descrivo. Certamente questa cosa andava fatta, ma è una cosa che bisognerebbe commentare in 4-4-8 e andare oltre, perché poi, per poter descrivere il mondo, non, cioè, possiamo sempre regolarmente eliminare le interazioni della parte col contesto. Questo addirittura nelle situazioni banali, perché la fisica studia cose banali rispetto a quelle che state ambendo di conoscere voi, l'organismo biologico terribilmente complesso come l'organismo umano, va bene? Quello che, mentre oggi il discorso scientifico viene tutto fatto sui sistemi aperti, le zone dove le aree sulle quali c'è il progresso sono quelle interdisciplinari, quelle dove sostanzialmente si studiano le interazioni fra ogni parte e il resto del sistema, dove il sistema si considera nel suo insieme. Esistono delle teorie la prima metà del Novecento è stato tutto un verificare i limiti della scienza dell'Ottocento, il principio di indeterminazione di Heisenberg, i limiti della logica di Gödel, il concetto di spazio e di tempo non sono più assoluti di Einstein, il mondo dei problemi mal posti stabiliti, diciamo, descritto dal matematico Hadamard all'inizio del Novecento, tutti limiti alla conoscenza sostanzialmente. Nella seconda metà del Novecento sono venute fuori altre visioni, infatti i filosofi della scienza, Thomas Kuhn, descrive proprio uno slittamento di paradigma del metodo scientifico, che vuol dire ragionare in modo diverso. La scuola che noi facciamo è praticamente ignora questo, ci sfugge completamente questo aspetto. Mentre per i sistemi biologici è fondamentale, per esempio ora sta emergendo, io non sono un medico, abbranco qualcosa come il lab, sento, va bene, ci sono quelli che si occupano del sistema nervoso, quelli che si occupano del sistema endocrino, e il sistema immunitario, sta emergendo che questi sistemi sono estremamente correlati fra loro, cominciando a rendere ragione di effetti psicosomatici e un sacco di cose che nella visione della scienza ottocentesca che spezza, riduzionista, che fa tutto a pezzi, sostanzialmente erano completamente ignorate, se non in certi contesti disprezzate. Allora, in tutta questa, diciamo, una lettura bellissima, perché la fonte fondamentale, molti pensano che io sia un super entusiasta di tecnologia, no, io sono entusiasta delle cose che servono a qualcosa. Un nuovo strumento consente di fare cose che gli strumenti di prima non consentivano. A me interessa questo nuovo perché mi dà nuove potenzialità, ma non è che mi piace il nuovo così, mi piace tantissimo il vecchio buono, e penso che per usare bene il nuovo bisogna andare a riprendere sempre il vecchio buono. Quindi i libri, per questo invece di fare prendere PowerPoint eccetera, mi piace sempre portare libri, vedete come sono ciancicato, questi sono i proletti. Questo è veramente per dare una visione, quella visione specialmente del mondo scientifico, ma non solo, perché poi questa diventa anche una visione umanistica, è la divisione fra, le divisioni sono sempre deleterie, e questo è un aspetto della scolarizzazione, che poi diventa scolarizzazione della società. La divisione più nociva di tutte è fra mondo umanistico e scientifico. Uno scienziato che non ha una visione umanistica del mondo, andate a leggere tanti aforismi di Einstein o personaggi del genere e vi renderete conto di quanto sono letterari. Una visione scientifica del mondo che non sia in una prospettiva umanistica è una visione che va poco lontano. Se Einstein non avesse avuto questa apertura, non gli sarebbe nemmeno venuto in mente di poter rovesciare il mondo così, cosa che si è poi rivelata corretta. Un umanista che ignori completamente, snobbi le nuove visioni scientifiche, destinato a essere zoppo, non potrà, gli manca qualche cosa di cruciale. No, questa unitarietà, questa questo sistema, la visione di sistema va assolutamente recuperato. Questo è un libro bellissimo da leggere, ne ha scritti due o tre. Fritz Kata è un fisico, è molto famoso perché un libro che era scritto negli anni 70, il Tao e la fisica. Poi ha scritto questo Web of Life, per gente come voi è strepitoso, ma lo è per tutti, interessantissimo. Un altro, Hidden Connections. Questo l'ho solo scorso un pochino, il prossimo che leggo, e questo ora sono a fine, va bene. E descrive molto bene queste cose che io ora posso solo accennarvi proprio di sfuggita, però questa introduzione che ho fatto ci serve come zoccolo, come base. E che cosa in questa visione dell'importanza delle relazioni tra le parti di qualsiasi sistema emerge un concetto nuovo che è la rete. Ora voi direte, internet. No, bisogna stare attenti ragazzi a questi stramaledetti luoghi comuni. Cioè, io detesto anche la mainstream information, perché noi sentiamo, per cui dopo la rete internet è nuova, una cosa nuova, perché internet è nuova. Cioè. Allora, la rete è uno dei sistemi fondamentali che usa la natura nell'evoluzione. La rete internet è l'ultima rete che è comparsa su questo pianeta, forse anche su altri pianeti, perché è quasi sicuro che ce ne altri, bene, su base probabilistica, su questo è l'ultima. La rete è una visione, è un qualcosa che in realtà sta consentendo a chi si occupa specialmente di capire i meccanismi della vita di comprendere come sia sorta la vita, come siano venute fuori delle catene di reazioni capaci di autosostenersi nel brodo primordiale su questa terra circa 4 miliardi di anni fa. E si pensa all'attività della cellula come a una rete di macromolecole che sono in relazione fra loro. Il sistema genetico si sta cominciando a concepire come una rete di interazioni fra i geni, e non sono i singoli geni che esprimono le caratteristiche, ma le interazioni fra i geni, è una cosa viva. La nostra costituzione in tanti aspetti, ce ne ho così tanti che io ho difficoltà a sintetizzare, è costruito da reti, il sistema nervoso e lo neurale ovviamente è una rete evidente, ma anche, come accennavo prima, il sistema endocrino, il sistema immunitario, gli aggregati di cellule sono di fatto delle reti. E dal punto di vista sociale stanno emergendo tante visioni che si collegano a questi meccanismi naturali. Gli uomini, ora qui vado più. Io con uno di voi ho avuto un colloquio, va bene, nel blog, insieme abbiamo potuto un pochino approfondire cosa c'è di nuovo, non buono e buono nella rete, va bene, l'internet, e siamo arrivati a commentare alla fine una delle ultime cose che ci siamo detti è che pare che oggi la società sia un pochino, diciamo, abbia dei problemi che derivano da visioni egocentriche, solipsistiche, internet favorisce questo perché ognuno è per conto suo, eccetera. In realtà, discutendo insieme, effettivamente viene da pensare che no, è più complicato. Sono fenomeni che risalgono a quando la società rurale, che era la totalità quasi in un paese come il nostro, l'Italia, si è trasformata nel corso dell'industrializzazione in una società industriale e terziaria, dove ogni famiglia sta per conto suo, ma nella società rurale si creava rete. Nelle comunità rurali era normale fare rete, Il fare rete che vuol dire è io quando devo battere il grano mi aggrego con gli altri, si batte il mio, 15 giorni dopo si batte il tuo, si lavora tutti insieme. C'era un fortissimo spirito di aggregazione e l'egocentrismo nella versione che conosciamo oggi non esisteva praticamente, perché era controproducente per la sopravvivenza. Ma gli uomini cercano di fare rete come possono, anche oggi. La massoneria rappresenta un modo di cercare di fare rete, cioè di cercare di trovare collegamenti trasversali per aiutarsi a vicenda. I modi di fare rete dell'ultimo scorcio di secolo, diciamo, del Novecento, sono spesso poco simpatici in massoneria. Modi trasversali che tendono ad andare al di là delle regole democratiche, eccetera. Ma questa tendenza a fare rete c'è. Cosa è cambiato ora? Solo che è più facile stabilire connessioni. Quando io avevo la vostra età a casa mia, io per parlare con una persona dovevo andare a parlarci. Voi mi potete mandare un'email, ma io devo andare a cercarlo fisicamente. Ora guardate che in Italia i professori bisogna che incontri lo stesso, ma questo è perché noi si dorme. Ma normalmente, cioè uno, a quei tempi si poteva solo cercare, oppure c'era il telefono, ma il telefono era una cosa completamente diversa da quella che conoscete voi. Il telefono voi l'avete tutti qui, c'è qualcuno con anche due. Ma il telefono invece era una cosa nera, grossa, che stava in una stanza della casa. Un telefono andava cercato. Alle poste centrali a Pontasseve c'era una stanza con i telefoni per andarci a telefonare. Le comunicazioni erano più difficili, era più difficile fare rete. Improvvisamente con internet, io sintetizzo parecchio, corro nel tempo, ma questo percorso che io sto facendo con voi potrebbe essere espanso con un diletto e sarebbe anche forse importante per diverse ore, va bene? Allora, ora improvvisamente con internet cos'è cambiato? Non è che internet non è un diavolo né una divinità, è semplicemente una cosa che ha reso le connessioni, ha levato l'attrito dalle connessioni. Cioè, se mi voglio connettere con qualcuno, è istantaneo, tutto qui. Ecco che una volta che ci sono nati un certo numero di strumenti, ecco che sono venute fuori delle cose nuove. Questo concetto si chiama emergenza ed è, badate bene, tipico non di internet, ma delle reti. I filosofi, gli scienziati, quelli con la mente aperta, sono la minoranza, attenzione, chi si occupa di tecnologia, di sviluppo, eccetera, lo sanno e lo descrivono le reti come degli aggregati di nodi abbastanza simili fra loro che sono in connessione, che possono connettersi in modo molto semplice, nei quali superate certe masse critiche scattano e emergono, l'emergenza è diventato un concetto filosofico, emerge il nuovo. Si usa descrivere questo concetto con l'idea, con questa affermazione, si ottiene il fatto che il risultato è superiore alla mera somma delle parti. Non è che io aggiungendo nodi a una rete semplicemente incremento quantitativamente ciò che ci accade. No, un po' è così. Poi a un certo punto viene fuori qualcosa di nuovo, che esiste perché i nodi della rete sono fatti in un certo modo e sono connessi in un certo modo, però ha caratteristiche proprie che non si ritrovano scritte dentro ai componenti. Cioè, noi siamo fatti esclusivamente di cellule, ma nelle cellule non c'è scritto tutto ciò, le poesie che noi immaginiamo, però le poesie che immaginiamo vengono fuori per forza unicamente dal fatto che noi siamo aggregati di cellule. Emerge il nuovo. Questo è un fatto fondamentale, è sempre successo. L'evoluzione ha usato pesantemente, fortemente questo meccanismo di emergenza. Il fatto che in internet siano emerse cose nuove, che scandalizzano, turbano più che altro, spaventano, diciamo, coloro che sono un pochino più conservatori, non sono assolutamente una novità. È una cosa che succede su questo pianeta da 4 miliardi e mezzo di anni. sta emergendo il nuovo perché è semplicemente una rete, si sono superati dei certe masse critiche. Andiamo a commentare questo nuovo subito, per riuscire a stare nell'oretta che ci concediamo. Vabbè, Linux. Allora, ad un certo punto, vabbè, sapete cosa sono i sistemi operativi? Sì. Il resto questo corso ha pur sempre il nome di informatica, si può finire che ne parlo pochissimo, vabbè, specie parlando. Comunque il sistema operativo è quel software che governa, che dà diciamo il metabolismo basale della macchina, no? La fa funzionare di base, fa spostare file, accedere agli apparecchi, come sapete, Windows, Vista che è meglio non averlo, Linux, Mac OS X e tanti altri, Unix, eccetera, eccetera. Il software è diventato uno dei business fondamentali dell'industria, della information technology, una delle più ricche industrie del mondo. È lì che, dove il gioco si fa duro e i quattrini sono tanti, il software. E negli anni 90 Microsoft, Bill Gates è diventato l'uomo più ricco del mondo a furia di fare programmi cattivi, tra l'altro. Quindi è un business formidabile. E ad un certo punto, come l'ho vissuta io, ero a Marzocco, attualmente si chiama Martelli, ero alla cassa a pagare un libro e c'era una pila di CD e c'era scritto Linux Slackware 3.2, non mi ricordo questo. Linux, io pensai, Unix, Linux, andai a vedere, boia, era il 94 mi pare, 95. E ma costava, c'era la lira, costava insomma una discherata, pochissimo, quasi niente, il prezzo del CD quasi, io pensavo il prezzo del CD, perché era già subito capito che era gratuito. E ho a casa, provo a montarlo sul computer, il sistema operativo è funzionato, ma chi l'ha fatto? Ecco, allora l'ha fatto un ragazzo, ha concepito un ragazzo, Linus Torvald, c'è una biografia. Linus Torvald nel 91 era uno studente di informatica finlandese e lui aveva un nonno statistico, a un certo punto c'era un PC vecchio nel 90 che c'era, il 386 forse, non mi ricordo più bene, insomma, computer che a voi farebbero ridere, nel senso che il 90% delle cose che fate voi su quel computer non c'entra nemmeno. Il computer che usate voi sono ottimi per mandare un razzo sulla Luna, si può fare tutto, un super macchina. E quello era 386, mi sembra, è un PC. E lui, però dice: Madonna, faceva Linus Torvald, quanto fa schifo questo sistema, non funziona mai. DOS, Windows, è sempre stata una schifezza totale, va bene? Perché dico schifezza? Non sto facendo rivoluzionari. È perché a quei tempi nei computer di tipo tecnico, scientifico, si usava nei laboratori di ricerca, c'erano sistemi operativi che non si sognava nemmeno ad avere i problemi di quel sistema messo in commercio su macchine, chiamiamole così, popolari. Quindi Linus disse, perché deve fare così schifo? Quasi quasi disse, voglio provare a prendere un sistema operativo, il migliore era Unix, tutto il mondo si usava Unix, in tutte le ricerche, in tutti i laboratori scientifici, e se lo voglio mettere nel PC. Ragazzo come voi, è 20 anni, cioè. E allora, poi c'aveva comunque alcuni vantaggi. In Finlandia d'inverno c'è un mare di tempo, non si sa che fare, o si beve, o si chiede che tu fai. Insomma, so ganzi, c'hanno un sistema di formazione strepitoso. No, noi non paghiamo niente, e se ci pensa di notte, non so. E poi c'è un altro problema, c'è una finlandese, perché Linus Torvald, io credo, sono quasi convinto che se lui fosse vissuto in Italia non l'avrebbe mai fatto Linus, perché la mamma ti massacra, capito? E dice, tu fai una nottata, dice, oh, poverino, gli ma no, fa questa vitaccia, vada a studiare, c'è da arrivare in fondo agli studi. Non, invece lì, sai, ci va bene, e se proprio se la mangiasse poco andava a prendere un piatto e fast food, aprire la porta, come i croccantini del gatto. E lui faceva una traccia, le occhiaie, ecco, da noi non sarebbe stato possibile. E quindi la mamma nordica certamente ci ha fatto un fatto positivo. Volete, sembra uno scherzo, ma non è tanto uno scherzo. E allora, insomma ragazzi, lui nel 91 mandò una storica email nei circuiti di allora internet c'era, ma non è quella che conoscete voi, era fatta di computer tutti neri con dei comandi e si usavano cose tipo FTP, email, c'era diciamo, ma comandi tutti scritti, bisognava aprire il manuale per imparare, non si poteva imparare da soli con l'interfaccia grafica, non c'era. Però lui era in questi circuiti, gli piaceva razionare il computer e mandò questi mail, disse vabbè io ho fatto il kernel, si chiama il nocciolo del sistema operativo, e con la nonchalance della generazione dei ventenni degli anni 80, un po' in snobista, disse vabbè ecco qua, vedete un po' voi. E in realtà lui era influenzato da un altro pazzo idealista di 10 anni più vecchio, Richard Stallman, che si è levato di testa il concetto di software open source e di licenza copyleft, che è il reciproco del copyright. Copyright vuol dire io ho scritto questo, se te tu lo tocchi, tu paghi. E invece il copyleft è questo, io ho scritto questo software, tu lo puoi prendere, tu lo puoi usare, tu lo puoi cambiare, però tu devi scrivere se tu lo fai quando tu lo dai agli altri, che te l'ho dato io, e che te tu dai gli stessi diritti, copyleft. A quei tempi stava esplodendo l'industria e chi si intende del mondo sono i manager nell'immaginario continuo, no? Quelli che sanno come vanno le cose, i duri, che la gente dice, no, questa. Anni 70, Capellone, Berkeley, le prime, questo è, perché 68 in Italia si vive in un recinto chiuso, no? È netto, ma 68 non mi amo italiana, è un movimento internazionale che c'è stato in Oriente, a Berkeley è famosa per le, è stato un fenomeno emergente che è emerso perché le condizioni erano mature perché emergesse, punto. Bene, che dicevano, vabbè, figlio dei fiori, il solito scemo, questo, vabbè. Addirittura lui lavorava al MIT, al laboratorio di intelligenza artificiale del MIT, per un giovanotto che fa ricerca su queste cose, dopo il MIT, questo laboratorio, dopo c'era Dio, c'era altro, si poteva fare cose più grandi. Poi lui si dimise perché disse questa è una struttura una mischerata e si può fare, e si dedicò alla causa del, è un programmatore geniale, fece dei pezzi di software che aveva usato Linux, e Linux si richiamò, disse vabbè, vedete un po' voi che è successo. 91, allora il software si misura a riga di codice perché una cosa si scrive quasi in italiano con una sintassi precisa, insomma, niente di particolare. E chiaramente un programma più complicato tende ad essere più lungo. Bene, lui mise in circolazione 10.000 righe, ora vi fate il conto, praticamente è come un tascabile, sono circa 250 pagine. Allora, che successe? Che gli altri ragazzi squinternati che la notte non sapevano che fare in tutto il mondo cominciarono a guardare, dicendo, guarda che l'ha fatto lui, fammi provare, funziona, boia, però non mi funziona la stampante. E allora andavano a vedere il codice perché era leggibile in chiaro, e dicevano madonna, ora guarda, cambio questo così mi funziona anche la stampante mia. Fatto questo lo rimettevano in rete, piano piano ecco l'emergenza del nuovo, piano piano questa cosa si è arricchita da sé. Nel 95, 4 anni dopo, era successo che le 10.000 righe di codice erano diventate 250.000, che è come dire che accanto al librino scritto da Linus se ne erano affiancati altri 24, ma non li aveva scritti lui, l'avevano scritte delle persone a caso, come voi, te laggiù, che so, vi siete messi a fare questa cosa e avete collaborato. Voi direte, accidenti e coordinatore, però Linus coordina. No, non ha coordinato un accidente, nulla, ha buttato dentro alla massa questa cosa e gli è ritornata aumentata di 24 volte. Nel 2000 le righe di codice, ricordare, 10.000, 250.000, dopo altri 5 anni 10 milioni. Poi ragazzi, 10 milioni, vuol dire che il libricino di Linus del 91 è cresciuto di 900, di 1000 volte, altri 999. E chi li ha scritti? Ragazzi in giro per il mondo. Coordinati? No. Semplicemente Linus si limitava di tutte le versioni che gli arrivavano a prendere sempre quella che funzionava meglio. E tutti ragionavano così. Cioè si è autoselezionato una cosa e funzionava. Ecco l'emergenza del nuovo. Dov'è qui l'emergenza? Non è avere fatto un software più grosso. L'emergenza è stata dar vita a un modello di sviluppo diverso, intrinsecamente diverso. Perché fino a quel momento un software così complicato come un sistema operativo poteva solo essere concepito nell'ambito di una rigida gerarchia, grossi finanziamenti. Bill Gates si è potuto prendere il lusso di assumere i migliori ingegneri del mondo, i migliori informatici, i migliori matematici. Ha potuto assumere a centinaia in una struttura gerarchica dove quelli super ganzi coordinavano i ganzi coordinavano i bravi. La struttura gerarchica industriale è partita dal modello militare, in sostanza, perché poi la storia dell'uomo dell'Occidente è questa, no? E solo la gerarchia poteva produrre le cose, conquistare popoli, manovrare, gestire, spostare, botte, schiantarci. Invece con la rete è nata una cosa nuova, perché questo non l'ha coordinato nessuno, la gerarchia dove non c'è. Linus Torvald vuol fare quattrini? No, andava in una fabbrica, in un'azienda in America, dopo che è diventato famoso, a fare una cosa ganza e gli piace. Basta. Se andate a cercare le foto in rete, c'è lui, è in versione casereccia, con pantaloni corti, bambino in collo, è un parcheggio della Hop, da qualche parte del mondo, condizionato male. Che è emerso di nuovo. Voi direte, vabbè, sì, comunque sarà una ganzata, però una ganzata che sta lì, no? No. Andiamo subito all'altro fatto. IBM, ragazzi, IBM è il massimo del capitalismo, della gerarchia, del controllo, della finanza. IBM è nata nel 1917. Tutte le banche del mondo dagli anni 50 in poi sono state riempite di computer IBM. E il software, il sistema operativo era fatto dall'IBM. E l'IBM ha i più grossi laboratori di ricerca del mondo. È la multinazionale che produce in tutto il mondo, è la multinazionale che produce più brevetti al mondo, 3.000 l'anno, una cosa, un IBM, dopo l'IBM non c'è più niente, il massimo. In effetti IBM ancora oggi è riuscito a sopravvivere, eccetera. Beh, detto questo, IBM è un'azienda che se vuole dice no, ora si sta andando un po' peggio, 30.000 dipendenti, vi ho dato un'altra cosa, se continuo, sì, ecco, insomma. Allora, IBM 2001, annuncio del CEO, il Chief Executive Manager, sono quelli proprio giganti, Gerstner si chiamava. In realtà sono delle figure patetiche, come gli allenatori di calcio. Poi uno di fortuna, secca qualcosa, da 2 anni, via, funziona più, perché il mondo è più complesso. Il manager è un mestieraccio. Allora, annuncio, noi nel 2001 ora stiamo per investire... Chiudete le orecchie, lo mette a fuoco la cifra. $1 miliardo per introdurre Linux, sistema operativo Linux, prodotto da quella banda di capestrati, dentro a tutti i computer IBM. È ubriaco, è possibile, no? Ma senso. È come un generale che un bel giorno esce sul campo di battaglia in mutande, dice impazzito, è venuto, ha perso la testa. La stessa cosa. E coinvolgendo 1500 ricercatori dei laboratori di ricerca IBM in tutto il mondo. Due anni dopo, dichiarazione, l'operazione è stata una delle operazioni di maggior successo dell'IBM, scusate, ho un caldo boia, e abbiamo già ripreso gli investimenti, un miliardo di dollari già recuperato, perché questa cosa funziona, Linux funziona da Dio. È robusto, ci si costruisce della roba solidissima. Madonna. Nel 2003 annuncio del capo responsabile della divisione proprietà intellettuale dell'IBM, no di una filiale di Firenze IBM, no, il responsabile proprietà intellettuale dell'IBM, International Business Machine, un uomo in una posizione strategica proprio. La proprietà intellettuale per le aziende dell'economia moderna è il concetto, è l'anima, il mondo c'è proprio quello che ci fa profitto, che va tenuto chiuso in 30 cassaforti, va bene? Ecco, allora, annuncio, noi abbiamo, se era messo Linux in tutti i computer, bene, ci si è costruito software in più, si è fatto un mare di brevetti, tra i nostri 3.000 brevetti, bene, 600 di questi li rendiamo liberi, nel senso che chi vuole il nostro software, un qualsiasi operatore open source, questa gentaglia qui, e può fare, può costruirci sopra. Cioè l'IBM ha introdotto così il concetto di gestione della proprietà intellettuale, non più tutta in cassaforte, ma un po' la metto in circolo perché credo all'esistenza di un ecosistema, ecco il nuovo che emerge. La rete, non so solo le stronzatine che si dicono nei talk show della televisione che sono da evitare come la peste, sono queste cose, cioè sta nascendo nella rete un ecosistema economico vibrante, come dicono, dove l'IBM trova utile iniettare proprietà intellettuale perché gli ritorna. E il valore totale di questi brevetti messi in circolazione era di 40 milioni di dollari, che vuol dire che l'IBM ha capito che può convenire anche a una grande multinazionale cavarsi fra pari nei produttori della rete, diciamo, per collaborare da pari. Questo è un, e in questa intervista, questo responsabile della divisione proprietà intellettuale disse, cioè, si disse, it isn't because we are nice guys, non è perché siamo buoni, siamo diventati buoni, noi siamo sempre più scemi, se no vi siete. È che ci siamo resi conto che è emerso un nuovo modo di fare business e che non lo possiamo ignorare. Infatti, dopo, rapidamente, tutte le aziende di information technology hanno aderito a questo. Ci sono altri esempi, ma questi li cito velocemente, velocissimamente. La Procter & Gamble produce cose farmaceutiche, non solo farmaci, fa anche la schiuma alla barba. Dire, oppure cateteri, questa cozzaglia e roba sanitaria, tal tipo, eccetera, e è un'azienda, cioè, una multinazionale pazzesca, e era in crisi nel 2000, hanno avuto l'idea, il problema era di fatto ricerca e sviluppo, perché queste aziende, se non c'è ricerca e sviluppo non funziona nulla, dove un esercito di 9.000 ricercatori è in tutto il mondo, e avevano difficoltà a essere produttivi, innovativi, hanno avuto l'idea di mettere in rete proprietà intellettuale resa libera, va bene, dei progetti di ricerca, facendo una specie di asta per vedere se c'era gente che trovava delle soluzioni. La cosa ha avuto un successo strepitoso, hanno ricominciato a decollare in borsa. C'è il caso dell'azienda mineraria di estrazione dell'oro, dove hanno messo i piani canadese, dove hanno messo la mia via, hanno messo in rete i piani geologici delle dei terreni su cui avevano concessioni, tutta la gente, un'altra cosa agitatissima, un sacco di gente assolutamente imprevedibile, studenti, militari del genio in pensione, chimici, gente che non ci capiva apparentemente niente di estrazione, ha trovato delle soluzioni, e anche la Gold Corp, che stava per fallire, è ripartita, ma vuol dire sono aziende quotate, quotate Wall Street, non sto parlando dell'aziendina, va bene, è locale, è ridecollata in maniera strepitosa. Questo è nuovo che sta emergendo. Perché emerge? Perché nella rete si azzerano gli attriti delle connessioni tra persone, istituzioni, organizzazioni, eccetera, eccetera. Questo è un concetto che voi in realtà implicitamente avete capito molto bene e usate inconsapevolmente, con tutto l'infinito nazichio di SMS, Facebook, ci sono anch'io, anzi se per comunicare usiamo Facebook, perché io so che se fanno annuncio nel Facebook, beh, quasi tutti, non proprio tutti, perché c'era anche lo zoccolo duro di quel tipo. Però no, ma è una, questa lo dico seriamente, io lo sto usando seriamente perché per me è importante beccarvi a volte e tempestivamente, quindi che me frega se non ci... perché a me piace raggiungere, nel mio anni che c'è un po' di rughe, no, sono rimasto sempre un ragazzo. E allora, quindi voi siete pieni di per voi la connettività vi viene spontanea, ci siete cresciuti, va bene, chi c'ha problemi siamo noi, in senso delle istituzioni, e solo alcune grandi aziende se ne sono accorte nel mondo. C'è un libro Wikinomics è nato, la economia wiki. Beh, citiamo Wikipedia. Ora non ho rinfrescato nella memoria, non sono andato a rivedere le cifre. Wikipedia all'inizio anni 90, c'è Jimmy Wales, aveva la fissa di fare un'enciclopedia. All'inizio cominciò dicendo uso la rete per fare l'enciclopedia. Lui ebbe l'idea di enciclopedia in rete, ma la seccò solo parzialmente, perché disse, vabbè, però gli articoli hanno bisogno di un comitato di revisione, quindi come nelle enciclopedie normali. Che lui fece questa cosa, e insomma riuscì, ci spese non so quanto centinaia di migliaia di dollari, e in un anno fecero una ventina d'articoli, qualcosa del genere. Che l'enciclopedia a botte di 20 articoli l'anno, 20 voci all'anno, se no non funziona. Sicché ecco l'innovatore, ragazzi, uno non ha paura, perché se si può pensare ad essere ganzi, creare nuovo, ci vuole anche follia. Il mondo lo costruiscono i folli, non i controllori, non i gerarchi, questo cacciamo bene in testa. I folli sono quelli che sono disposti a pagare i prezzi perché gli piace fare una cosa nuova. I folli sono i poeti, ecco perché dico si deve rimanere a cavallo fra le cose umanistiche e scientifiche. Cioè il sognare, l'appassionarsi è fondamentale per creare innovazione anche nella scienza, se no non esiste. È la follia di Jimmy Wales, quale fu? Disse, lo sai che si prende e si dà un bel calcio agli esperti. D'altronde io voglio dire se funziona questa cosa. Chi ha da scrivere scriva, e se qualcuno trova una bischerata la corregga. Disse così. Usò le pagine wiki, che non sono altro che un sito come wiki, che forse qualcuno di voi conosce, un sito dove chiunque ci può scrivere semplicemente. C'è solo Wikipedia, no, avete visto il sito wiki? No? E uso questo, una versione, ce n'era uno, e uso quello. Nel giro di un anno, anziché 24, erano subito, non so io, qualcosa come 100.000 articoli. La cosa è esplosa, è il nuovo, l'elezione del nuovo. Naturalmente tutti a dire, ancora qualcuno insiste, dice sì, ma non c'è il controllo, l'affidabilità, chi controlla? Questa è la nostra ossessione ottocentesca, ragazzi, noi con l'industrializzazione si è perso la testa, ora bisogna un pochino levare la testa di bronza, perché la natura non ha mai controllato niente, la natura ha portato all'evoluzione dei primati e di noi a furia di tentativi e errori, accatastando una rete sull'altra, questa è la realtà. Il controllo, non esiste una mente posta contro, chi ci può mettere Dio lo faccia tranquillamente, ma probabilmente anche Dio è una rete se non ce lo può vedere, perché per la creazione ha scelto questo meccanismo lì, non ha scelto il controllo, sono i militari che hanno bisogno del potere, te tu fai che dico io, capito? E che allora inventai il controllo, e i maschi sulle femmine inventai il controllo, infatti le femmine sono molto più animali di rete, ci sono delle evidenze di questo tipo e di questo dovremmo trarre vantaggio. Sicché, care ragazze, quando voi cercate di entrare, come è auspicabile sempre più nel mondo del lavoro, eccetera, però rimanete donne, non fate finta, non fate come fanno gli uomini, perché sennò è fuori un troiaio. Senti molto di vero, in questo sto dicendo, anche se detto un po' così, in modo asereccio. Allora, quindi, che succede? Allora, falla bene. E sulla Nature lo conoscete, dovete conoscere voi, è la rivista scientifica più prossima, si è scritto Nature, cosa poi non del tutto vera, però infatti meno peggio di tutto c'è, cioè Nature, Science, bla bla bla, c'è grossa critica su questi sistemi, però questo è un altro discorso. Allora, hanno fatto un articolo, hanno detto ma questa cosa di Wikipedia si prova tutto, ma confrontiamo, sono tutti fuori, ci siamo, c'è un cumulo di viscerate. Facciamo un confronto scientifico, si prende una selezione di voci importanti e si confronta Wikipedia come sul rate degli errori, tra le altre cose, e sull'approfondimento delle voci. E si confronta con la più grande, più famosa enciclopedia tradizionale, redatta in modo convenzionale, è la Britannica, il top dell'enciclopedia. E oggigiorno, dove ci scrivono e controllano e redigono premi Nobel, Capuccioni, professoroni di tutti i tipi, eccetera. Sono venute paragonabili. In alcuni aspetti, non mi ricordo se sul rate degli errori un po' meglio uno, sull'approfondimento un po' meglio l'altro. Cioè uno dice sì, però vedi, no ragazzi, però è stato di fatto che sono due cose nate in modo totalmente, non ci perdiamo nei discorsi, cosa tipica italiana, affogando le parole. cioè, c'è una sostanza fondamentale. Non si pensava che le enciclopedie si potessero solo gestire in modo generale. Invece questa è cresciuta da sé e sono paragonabili. Questo è un fatto, punto. Non è inutile parlare. È una cosa nuova della quale si deve prendere atto. E c'è un fatto fondamentale, che non ha senso oggi fare un'enciclopedia convenzionale. Perché? Perché il sistema di redazione di convenzionale di fronte a una quantità di informazioni che raddoppia ogni 2 anni non può essere utilizzato. Anche la letteratura scientifica c'è questo problema. I fisici si sono stufati del processo di revisione peer review perché hanno troppa fretta, le cose stanno crescendo alla svelta. Invece Wikipedia la segue tranquillamente l'evoluzione, perché c'è il contributo di tutti. Allora, la Wikinomics in pratica è economia, cioè questi due giornalisti, Don Tapscott e Anthony Williams, sono due tipi, non sono due rivoluzionari, assolutamente, sono due giacchi incravattati che si occupano di tecnologia, duri e puri, e che hanno detto: ragazzi, qui c'è roba nuova, bisogna fare il business, bisogna tenerne conto. E ci sono venute fuori 4 regole. Open, 4 valori per il management delle aziende: openness, apertura, è proficuo essere aperti, lo è anche nella vita individuale, anche come valore umano, ma addirittura le aziende, conviene essere aperti, proprietà intellettuale, tieni un pochino perché poi ci conviene a tutti, c'è l'ecosistema, non si può ignorare la rete, sono le reti che crescono, non le gerarchie. Ci vuole la gerarchia. Faccio una metafora: la cellula è una rete brodolosa nella quale non ci si capisce una mazza, dove ci galleggiano dei corpiccioli strutturati in modo gerarchico, i mitocondri, il nucleo, sono ben precisi, tutta, ma galleggiano in quella brodanza, è una rete di molecole. È così che funziona la natura, un misto di gerarchie galleggiano nella rete, senza rete non c'è crescita, non c'è novità. Openness, peering, va valorizzare il valore fra pari. Linux è venuto lavorando fra pari, addirittura l'IBM si è calata a pari. Sharing, il valore della condivisione. Se io ho capito una cosa, la dico a te, non la tengo in tasca, è inutile. Quando io crepo, essa muore nelle mie tasche, che schifo. Invece se l'ho diffusa parte di me vibra, questo è sharing, l'hanno capito addirittura i manager. Io ho dei colleghi, io ho detto: scusate, ma le dispense tu, è bellino, tu mi hai detto guardami il sito, mi fece uno dei miei colleghi, guardami il sito, sì, va bene, bellino, grande, ce l'hai, poi chi lo vede, è studente, ma perché tu l'apri, vedo tutti, ci vedi le cose che ti ha scritto o no, ho paura di qualche cosa, no, figurati, come potrei però insomma, sai, io adesso sono geloso delle mie. Come, con questa affermazione disse come la dichiarazione è un suicidio intellettuale, poi diventa anche fisico, poi interstisce e tutto, sì. E non ha senso, è perdente, sharing è un valore, l'hanno capito anche alcuni operatori strettamente economici. Acting globally, se io penso una cosa non devo pensare per compiopi, che sto con compiopi, anche questo è come morire. Se io concepisco un corso e andrà a finire che io il mio blog è bilingue in alcune parti perché ho coinvolto degli studenti che si sono gratificati e divertiti a tradurre i post. E questo mi è servito per discutere con la gente nel mondo. E siccome il mondo è di molto più grosso dell'Italia, anche molto più dinamico, io ho avuto un ritorno pazzesco da questa visione globale. Ecco i valori della... Spero di avere sintetizzato passando dai punti che mi interessavano, perché a me le lezioni lunghe non piacciono, perché poi dovrebbero durare un quarto d'ora, secondo me. Altre 1/4 d'ora accademica. Allora, MedWiki. Come è nato MedWiki? Io vengo qui alla facoltà di medicina, quando c'è già, ragazzi, nel MIT, il solito MIT, dove era lui, dove lo andò via, no? È l'università nel mondo che contiene più premi Nobel. Ora, non è detto che questo sia necessariamente un valore, bisogna sempre vedere le cose nella big picture, però certamente, che cosa un pochino vuol dire, ci fossi solo io sarebbe un disastro, una schifezza. Allora, Il MIT è da 10 anni che mette i contenuti dei corsi in rete. Hanno messo tutti i corsi in rete, in formato PDF. È già una tecnica vecchia, ma comunque hanno fatto una cosa che non ci si sogna nemmeno. Io ho letto degli articoli, c'è un corso di analisi diventato famoso. Lo usano gli studenti regolarmente in India, in tutto il mondo. È usato da milioni di persone. Cioè, questa apertura è una cosa assolutamente nuova. Il valore della condivisione. Allora, vengo qui e che trovo? La foto in medicina? È un cartello, vendo le sbobinature che ho fatto io, si mette tutte sotto in tasca. Poi dopo vedo un disgraziato che studia sulle dispense estinte, rabberciate, tutto l'ho preso, l'ho fotocopiato da quelle. Cioè, poi scopro, c'è le fotocopisterie dove certamente uno fa il suo interesse. E quindi vende gonzi a comprare dei troiai, se li compro io vendo, e quindi ecco la fanta medicina negli anni 2000, la gente complica queste dispense vecchie, cioè siamo completamente fuori, al MIT hanno messo i corsi interi in rete, e noi che si sta facendo lì? Allora dissi, ragazzi, ebbi l'idea, è nato MedWiki, io non ci ho voluto il mio nome solo, perché io ho ispirato dei ragazzi come voi, hanno voluto collaborare. Poi basta, l'hanno fatto loro, per davvero. Allora, io ebbi l'idea, avevo letto di Wikipedia, sì, perché non si fa un wiki e gli appunti vostri li mettete e li arricchite? Wow. E li arricchite di anno in anno. Si provò, questo 3 anni fa, ma non decollò. Non decollò perché, ma perché? Perché non c'era abbastanza massa critica. Pensate che voi siete 230, sono tanti, però la massa ci deve essere per ogni tipo di novità che uno vorrebbe tirare fuori. È come se io semino un vaso, non l'ho abbastanza fertilizzato, la terra, e se non è abbastanza poi non vado avanti in un germoglio. Tutto semplice. Allora sono stati loro, quei ragazzi, che dissero, prof, ma qui... E bisognerebbe piuttosto usare, si chiama tecnicamente un content management system, cioè un sistema per la gestione di contenuti. Quindi noi digitalizziamo le dispense che ci sono in giro nella facoltà, anche quelle le andiamo a prendere, abbiamo coinvolto le associazioni che facevano un bel servizio, sia un pochino meno il collettivo come quantità, sia il servizio per l'appunto. E abbiamo convinto tutti, abbiamo fatto anche molte scene, ci abbiamo bevuto della birra per impastare, perché c'era anche divergenza politica e la birra è stata molto utile per amalgamare tutto, mi sono sparato un po' di pizza, però ho scoperto alla metà mangiare un buon casino, perché ho finito mangio troppo, non ce la faccio così a stare di dietro. Comunque tutto questo per capire c'è un aspetto umano grosso, forte, intenso, per cui alla fine però è partita questa cosa, si sono scelti un content management system open source, gratuito, costo zero, e l'hanno impostato, si sono scelti la grafica, si sono letticati, c'è voluto altre pizza, altra birra, poi alla fine si è trovato la convergenza, hanno trovato la convergenza, e io ho semplicemente fatto acquistare con di ricerca uno scanner ganzo, e nel giro di 2 anni, chiedendo collaborazione a voi, ora c'è tutto fino al 60, e anche corsi, io vorrei che questo fosse poi per la facoltà, non solo per gli studenti di medicina. Ho utilizzato gli studenti di medicina, sono partito da voi perché siete parecchi in un colpo solo, perché se si comincia una realtà frammentaria e con la massa critica. E questo ha funzionato. In 2 anni, nella versione attuale, bisogna iscriversi, se volete vi dico perché, ma sennò andiamo veloci, e ci sono più di 2000 iscritti, in 2 anni, e sono stati scaricati 60.000 documenti, il materiale di studio vostro. È una cosa che funziona bene, tutto è migliorabile, ma rispetto ai topolini che l'Ateneo partorisce in questo tipo di cose, questo è uno strumento strepitoso che non costa niente e utilizza la vostra voglia di fare le cose. Perché negli esseri umani, se gli si dà spago, la voglia c'è. Perché? Perché siamo un frutto delle evoluzioni. L'evoluzione, cioè le reti, producono nuovo. Certo che se te le prendi a sassate regolarmente, poi avvizziscono, è normale. E invece voi funzionate benissimo. Bene, detto questo, Io sono andato dai vostri, io non uso la parola colleghi perché la trovo fuorviante. Lo so che si usa oggi, ma i colleghi hanno un ufficio, compete. In un compagno di scuola operano, dovrebbero operare. Non lo sapete bene. Allora i vostri compagni di scuola, di studio, pardon, senso chiari dove spero di andare. Ecco qua, allora io gli telefonassi, ragazzi, mi dite o quest'anno che devo dire a quelli nuovi, eh? Allora loro si sono riuniti e hanno, mi hanno telefonato e hanno detto, guarda Andrea, bisognerebbe dire. È una cosa diventata quasi tecnica, e questa è cosa un'offerta e lo faccio, va bene. E me, che cosa vuol dire? Questo fa parte del terzo modo, Se qualcuno vuole, lavora così. Se lavora seriamente, c'è bisogno di fare dei lavori da dire, madonna, come fa un tech? No, lavorare seriamente, fare un prodotto concreto, cooperare concretamente, avere capito il messaggio, soprattutto, dopodiché questo va in print e basta, questo è lo scambio, no? Funziona così. Naturalmente vale per chi razzola bene col computer. Infatti quest'anno il bando, diciamo così, consiste, ci vorrebbe uno, che ho scritto, guarda, questo proprio ho preso appunto al telefono, no? Smanettone, ci vorrebbe uno smanettone, non è detto che ci sia, però su, 230, su un campione di 230 persone ci può essere anche uno smanettone, voglioso, voglioso, vogliosa, manettona, vogliosa, abbiate pazienza, cioè, è chiaro, no? Allora, che deve sapere? Perché nel gruppo attuale c'è solo Francesco, e Francesco è quello che ha messo insieme, ha dato la forma e che mette le mani nel codice HTML a volte per dire ora si sposta una cosa qui, si mettono qua, eccetera. E c'è solo Francesco che fa questo, ma Francesco ha scelto medicina, e quindi a volte ha difficoltà, va bene? E quindi lui dice, ma nemmeno ce ne fosse un altro, mi desse una mano, ecco, sapere un po' di HTML, un po' di PHP, magari, sapere un pochino di, che content management system, c'è uno così che gli piace, ma non è mia una cosa per tutta la vita, ci viene a stressarsi, magari per un anno, dice, guarda, ti seguo questa cosa, quando c'è da fare una modifica ti do una mano e si fa insieme. Lo spirito di cooperazione, se c'è gente, se la vedete come nella luce, ora vi fa vedere, e arrivo io e vi fa vedere come si fanno le cose, ecco. No, allora no, perché c'è restata a casina vostra e fate i ganzini in un altro posto. Io, qui si vuole gente che viene tranquilla, se sa delle cose non c'ha bisogno di dirlo tanto, lo deve dimostrare, infatti, semplicemente, ci lascio da fare questo, bene, te l'ho fatto bene, andiamo avanti, diamoci una mano. Gente così, Ok, non è una classificazione antropologica, cioè voglio dire, gente è disposta a entrare in questa atmosfera. Poi, c'è un discorso sulle sbobinature, perché i corsi cambiano, la cosa ganza di questo sistema è che se si collabora sempre, se c'è un po' di iniezioni nuove, si possono seguire le varianti, i corsi cambiano, nonostante tutto noi professori siamo esseri umani siamo, quindi per quanto si cerca di essere sempre così immutabili, uguali a se stessi, si cambia, ci scappano delle diversità a volte, e quindi ecco, tenerne conto. Allora, c'è un gruppo, ora nel mio blog, nel daily, ci ho messo dei riferimenti, gli indirizzi, email del gruppo MedWiki e il gruppo Google di quelli di loro. Dove, e poi l'indirizzo MedWiki, dove nel notiziario c'è questa, nelle news c'è questa mail qui, ve la leggo proprio, ciao a tutti, questo messaggio, proprio diretto a voi, questo messaggio è per gli studenti iscritti al primo anno, che intendono aiutarci a realizzare le sbobinature dei corsi del secondo semestre del primo anno. Probabilmente domani il Formiconi, a lezione, cioè oggi, vi spiegherà questo progetto, quindi questo forum, quello lì dentro a MedWiki, lo cercate, forum, servirà per raccogliere le iscrizioni al progetto di chi fosse interessato, che consiste nel registrare, sbobinare, per poi rendere disponibile a tutti gli studenti del sito i seguenti corsi del secondo semestre del primo anno. Uno dice, ma che lavoro per gli altri? Ragazzi, se pensate così, non fate medicina. Non è proprio il caso, anche se siete bravi, frega niente, non è una questione di bravura. parte, certo non sono totalmente suonato il discorso, ma è soprattutto una questione di prospetto. E allora un esempio brutale, quando uno va, si becca un cancro e va a farsi curare, per curare il cancro, non guardare le notizie, a guardare la stampa, io pensavo fosse il tumore non ci fosse più un problema, mi è capitata una storia tragica a casa mia, ho capito tante cose. Allora, chi cura il cancro è come Tex Fielder di fronte a, a una banda di bandiere. Tex Fielder forse è buono nel fumetto adatto, ma io continuo a leggere Tex Fielder. È quello che protegge le minoranze, il cowboy che protegge gli indiani, eccetera, eccetera. E allora, Tex Fielder che ha una pistola, vabbè, c'ha le pistole, poi c'è il Winchester e poi c'è il coltello. Allora, se l'azione è immediata, il bandito è veloce, la banda di banditi è veloce, cioè c'ha 6 pallottole nella Colt, poi c'ha forse non so quanti, diciamo 6 colpi nel Winchester e poi c'ha un coltello. Non è che poi dopo tirate il coltello, va a raccattarlo, no, e la coppano. E queste cose vanno giocate in successione in modo intelligente. Se io tiro il coltello quando è un nemico a 100 metri, chiaramente sono un deficiente, va bene? Cioè prima uso il Winchester, poi lo butto, poi piglio la Colt, poi piglio il coltello. E questa è una successione importantissima. Ora, detto così, dice le stronzate. Sì, però è vera, è una stronzata vera. Nel senso che l'oncologo, ma è sbagliato di l'oncologo, il medico che cerca disperatamente di risolvere il problema del cancro che è capitato a uno, va bene? C'ha queste idee, le deve giocare la successione giusta e nel momento giusto, dopodiché si ha tutto a casa, capito? Cioè si può lavorare per far star bene la persona che però se lo tiene il cancro. Allora, le armi ovviamente non sono un colpo, quindi c'è il coltello, ma è uguale, sono la chirurgia oncologica, la chemioterapia e la radioterapia. E Tex Fielder va a affrontare le bande di banditi con tutte e tre queste cose. Sarebbe cretino andare solo con una, perché è andata al congresso dei pistoleri, dice io con la pistola, donna, può anche la pasta asciutta la pistola. Ecco, e purtroppo il problema nostro è questo, guardate, non è tanto uno scherzo, c'è un problema da noi di cultura che manca tantissimo. Nel nostro mondo ci sono delle realtà bellissime e conosciute dove si lavora con collegialità, cioè per un paziente oncologico importante non decide mai da solo l'oncologo, non decide mai da solo il radioterapista, non decide mai da solo chi si occupa di chemioterapia, ma ogni decisione è ridiscussa, si riuniscono in continuazione, ma non è dappertutto così. È fondamentale la cooperazione. Se voi non capite questo, siete destinati a diventare dei medici miseri. Allora, sbobina quindi. Ottimo esercizio. Se io ho energie soverchie da fare gli appunti, vediamole. Vorrà dire che poi io godo della parte che non ho sbobinato, io ho fatto da un'altra. È così che cresce il mondo, è così che cresce la natura. E basta. Allora, volete partecipare a questo programma di sbobinatura? Entrate in collaborazione con questi ragazzi, come vi ho detto. Si può anche partecipare a attività correnti, perché è un continuo, c'è da rinominare dei file, da fare dei spostamenti, se uno nel gruppo qualcosa capita. Bene, allora io oggi in pratica ho finito con questo annuncio pubblicitario, offerta di lavoro, e vedete un po' voi. Ci si vede nella blogosfera, tutte le mattine io sono là e in aprile si fa quel seminario che serve a discutere i vostri risultati. Professore, scusi, per...